ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Martin continuava la sua faticosa lotta, sentendosi sempre più miserabile e disperato. Cominciava a pensare di aver perso anche la seconda battaglia, di doversi trovare un lavoro. Se lo avesse fatto, avrebbe accontentato tutti, il droghiere, sua sorella, Ruth e anche Maria, alla quale doveva un mese di affitto. Da 2 mesi non pagava il noleggio della macchina per scrivere e l'agenzia strepitava per ottenere il saldo dei debiti oppure la restituzione della macchina. In preda alla disperazione, Martin, pronto a tutto tranne che ad arrendersi, cercò di stabilire una tregua con il fato in attesa di potersi permettere una nuova partenza. Affrontò il concorso per entrare nelle poste ferroviarie. Con sua grande sorpresa risultò primo. Il lavoro era assicurato, anche se nessuno poteva dire quando sarebbe stato chiamato in servizio. Fu a quell'epoca, nel punto più basso della china, che la scorrevole macchina dell'editoria si inceppò. Forse si era mosso un ingranaggio, oppure era finito il lubrificante in una coppa, perché una mattina il postino consegnò una busta corta e sottile. Martin diede un'occhiata all'angolo superiore sinistro della busta e vi lesse il nome e l'indirizzo del Transcontinental Monthly. Il suo cuore fece un balzo, si sentì all'improvviso debole e quella sensazione, come di colare a picco, fu accompagnata da uno strano tremito delle ginocchia. Martin raggiunse barcollando la sua stanza e si sedette sul letto con la lettera ancora sigillata. In quel momento comprese come si potesse morire sul colpo, ricevendo senza preavviso una buona notizia. Naturalmente, quella busta conteneva buone notizie. Era troppo sottile per contenere un manoscritto e quindi doveva essere un contratto. Martin sapeva di quale racconto era in possesso il Transcontinental. Era Il suono delle campane, uno dei suoi racconti dell'orrore, più di 5.000 parole. E poiché i giornali di prima classe pagavano subito, la busta doveva contenere un assegno. 2 centesimi a parola, $20 un migliaio, l'assegno doveva essere di un centinaio di dollari. $100! Mentre apriva la busta, Martin vedeva scorrere nel suo cervello tutti i suoi debiti uno per uno. $3.85 al droghiere, al macellaio $4 esatti, panettiere $2, fruttivendolo $5, totale $14.85. Poi c'era l'affitto della stanza, $2.50, un altro mese di anticipo $2.50, 2 mesi di noleggio della macchina per scrivere $8, un mese di anticipo $4, totale $31.85. Infine bisognava sommare gli oggetti impegnati più gli interessi. Allora, orologio $5.50, soprabito $5.50, bicicletta $7.75, completo $5.50, 60% di interesse, ma insomma che importanza poteva avere, totale complessivo $56.10. Martin vedeva quella somma come se fosse stata dipinta nell'aria davanti a lui in cifre illuminate e ne vedeva anche la successiva sottrazione e il risultato. $43.90. Dopo aver pagato ogni debito, riscattato ogni pegno, avrebbe ancora avuto la sontuosa cifra di $43.90 tintinnanti nelle sue tasche. Con in più un mese di affitto e uno di noleggio della macchina per scrivere già pagati. Nel frattempo, Martin aveva estratto la lettera, composta da un solo foglio scritto a macchina, e l'aveva ben dispiegato. Non c'era nessun assegno. Martin sbirciò dentro la busta, la guardò controluce, ma non si fidava dei suoi occhi, e tremando per la fretta, la strappò in 2 pezzi. Non c'era nessun assegno. lesse la lettera, scorrendo da una riga all'altra, precipitandosi attraverso le lodi dell'editore per il suo racconto alla ricerca del succo della lettera, la frase nella quale si diceva perché non gli fosse stato inviato l'assegno. Martin non la trovò, ma trovò qualcosa che lo lasciò di sasso. La lettera gli cadde dalle mani, gli occhi gli diventarono opachi. Si appoggiò sul cuscino, tirandosi la coperta su fino al mento. $5 per il suono delle campane, $5 per 5.000 parole, invece di 2 centesimi a parola, 10 parole per 1 centesimo. E l'editore l'aveva anche lodato e avrebbe ricevuto l'assegno solo dopo la pubblicazione del racconto. Allora erano tutte stupidaggini. La tariffa minima di 2 centesimi a parola, il pagamento al momento dell'accettazione, erano bugie e l'avevano portato fuori strada. Se avesse saputo la verità, non avrebbe mai cercato di scrivere, ma sarebbe andato a lavorare per Ruth. Martin ripensò al giorno in cui per la prima volta aveva cercato di scrivere e fu atterrito dall'enorme spreco di tempo. Il Transcontinental costava 25 centesimi. La sua dignitosa e artistica copertina lo proclamava una delle riviste di prima classe. Era una rivista affermata, rispettabile, pubblicata regolarmente da molto tempo prima che Martin nascesse. E il nobile, celeste, ispirato Transcontinental pagava $5 per 5.000 parole. Bene, aveva abboccato. I quotidiani raccontavano solo menzogne sugli scrittori e i loro guadagni. E lui aveva perso 2 anni grazie a quella menzogna. Ma ora avrebbe vomitato quell'esca. Non avrebbe più scritto nemmeno una riga. Avrebbe fatto quello che Ruth voleva che lui facesse, quello che tutti volevano che lui facesse. Avrebbe trovato un lavoro. Il pensiero di trovarsi un lavoro gli ricordò Joe che vagabondava attraverso il paese del dolce far niente. Martin emise un profondo sospiro di invidia. E di colpo fu travolto dal peso di 19 ore di lavoro al giorno per molti giorni. Però Joe non era innamorato, non aveva nessuna delle responsabilità dell'amore e poteva permettersi di bighellonare attraverso il paese del dolce far niente. Lui, Martin, aveva un buon motivo per andare a lavorare e sarebbe andato a lavorare. L'indomani, di buon'ora, sarebbe partito a caccia di un lavoro e l'avrebbe fatto sapere a Ruth. Le avrebbe fatto sapere che voleva rimediare ai suoi errori e che desiderava entrare nell'ufficio di suo padre. $10 per 1 centesimo, il prezzo del mercato per l'arte. La disillusione, la menzogna, l'infamia di tutto questo dominavano i suoi pensieri. Sotto le palpebre chiuse, in cifre di fuoco, bruciava il $3.85 che doveva al droghiere. E Martin tremò e si accorse che gli facevano male le ossa. Gli facevano male soprattutto le reni. Anche la testa gli faceva male. La sommità e la nuca. Anche il cervello gli faceva male. Sembrava che si stesse gonfiando mentre il dolore alle tempie era insopportabile. e sotto le tempie, sotto le palpebre, vi era lo spietato $3.85. Aprì gli occhi nel tentativo di sfuggirgli, ma la luce bianca della stanza sembrava bruciarglieli e lo costrinse a chiuderli e si trovò di nuovo faccia a faccia con il $3.85. Martin lo osservò con curiosità finché al suo posto vide bruciare un $2. Ah, pensò, quello era il fornaio. Poi apparve la cifra successiva, $2.50. Era confuso e iniziò a riflettere come se la vita e la morte dipendessero da quella risposta. Doveva qualcuno $2.50, sì, questo era sicuro, ma a chi? Scoprirlo era il compito impostogli da un universo imperioso e maligno. Nella sua vana ricerca della soluzione, Martin vagabondò attraverso gli infiniti corridoi della sua mente, aprì ogni tipo di ripostiglio e di stanze stipate di memorie e conoscenze sparse. E dopo molti secoli gli venne in mente, facilmente, senza sforzo, che si trattava di Maria. Allora, con un profondo senso di sollievo, la sua anima si volse a guardare il crudele schermo sotto le palpebre. Martin aveva risposto alla domanda e solo ora poteva riposare. Ma dopo quello che gli sembrò un enorme intervallo di tempo, fu richiamato alla realtà da un colpo alla porta e dalla voce di Maria che gli chiedeva se fosse malato. Martin le rispose con una voce smorzata che lui stesso non riconobbe. Le disse che stava solo facendosi un sonnellino, ma quando si accorse che la stanza era immersa nel buio della notte, si meravigliò. Aveva ricevuto la lettera alle 2 del pomeriggio. Allora capì che era malato. Poi $8 riprese a covare sotto le sue palpebre come il fuoco sotto la cenere, e Martin ritornò ad esserne schiavo. Martin Eden non uscì per andare a caccia di un lavoro. Quando riemerse dal delirio, era ormai pomeriggio inoltrato. Si guardò in giro per la stanza con occhi doloranti. Mary, una bimba di 8 anni appartenente alla tribù dei Silva, che era stata incaricata di sorvegliarlo, lo vide riprendere conoscenza e si lasciò sfuggire un gridolino. Allora Maria abbandonò la cucina e corse nella stanza di Martin. Gli appoggiò sulla fronte la mano callosa per il lavoro e gli sentì il polso. «Vuoi da mangiare?» gli chiese. Martin scosse la testa. Mangiare era l'ultimo dei suoi desideri. Quasi non poteva credere di aver mai potuto essere affamato in tutta la sua vita. «Sto male, Maria», le disse debolmente. «Che cosa ho? Lo sai?» «Sei influenzato», rispose lei. «2 e 3 giorni e torni bene. Meglio non mangi adesso, forse che mangi domani, eh? Domani forse puoi meglio mangiare, eh?» Martin non sapeva cosa volesse dire essere ammalati, e quando Maria e la sua bambina se ne andarono, cercò di alzarsi e di vestirsi. Mentre la testa gli girava e gli occhi gli facevano così male da non poterli tenere aperti, Martin, con un supremo sforzo di volontà, si alzò dal letto, ma riuscì solo a raggiungere il tavolo e ad abbandonarvisi sopra, privo di forze. Fu in grado di ritornare verso il letto solo 1/2 ora più tardi, e una volta lì si accontentò di starsene disteso, con gli occhi chiusi, intento ad analizzare i diversi dolori e la debolezza che lo affliggevano. Maria entrava spesso per cambiargli le pezzuole fredde sulla fronte, ma per il resto lo lasciava tranquillo, troppo saggia per annoiarlo con delle chiacchiere. Oh, Martin le fu grato per la sua gentilezza e mormorò a se stesso. Maria, avrai il tuo ranch del latte. Oh, lo avrai proprio davvero. Poi Martin si ricordò del giorno precedente. Gli apparve come un passato da lungo tempo sepolto. Gli sembrava che fosse passata una vita intera da quel pomeriggio in cui aveva ricevuto la lettera dal Transcontinental. Una vita intera da quando aveva deciso che era giunto il momento di voltar pagina. Ah, aveva sparato i suoi colpi e aveva mirato con attenzione, ma adesso era a terra. Se non si fosse ridotto alla fame, nessun microbo avrebbe potuto colpirlo. Ma Martin si era così indebolito da non aver avuto la forza sufficiente per scacciare i germi della malattia che lo avevano invaso. Quell'influenza ne era il risultato. Se un uomo scrive un'intera biblioteca, ma ci rimette la vita, che guadagno ha? Si chiese a voce alta. Ah, questo posto non fa per me. Ho chiuso con la letteratura. A me la stanza della contabilità e i registri, il salario mensile e una casetta, insieme a Ruth. Due giorni più tardi, Martin, dopo aver mangiato un uovo con un paio di fette di pane e bevuto una tazza di tè, chiese di vedere la posta, ma scoprì che gli occhi gli facevano ancora troppo male per poter leggere. «Leggi per me, Maria», disse. «Lascia stare le lettere più grosse e più lunghe, gettale sotto il tavolo, leggimi soltanto quelle piccole». «Mica capace», fu la risposta. «Teresa, lei va a scuola, lei capace». Così Teresa Silva, di 9 anni, aprì le lettere e gliele lesse. La mente impegnata a riflettere su come trovarsi un lavoro, Martin ascoltò distrattamente un'interminabile lettera di sollecito inviatagli dai tipi della macchina da scrivere. E all'improvviso, però, qualcosa lo colpì. «Le offriamo $40 per i diritti di pubblicazione a puntate del suo racconto», Teresa pronunciava lentamente, «se ci permetterà di apportare le modifiche suggerite». «Che rivista è?» gridò Martin. «Qui, dammela!» Adesso i suoi occhi riuscivano a leggere e Martin non si accorgeva nemmeno del dolore che quello sforzo gli provocava. Era il White Mouse a offrirgli $40 e la storia era Il Gorgo, un altro dei suoi primi racconti dell'orrore. L'editore gli diceva esplicitamente che non aveva reso l'idea in modo adeguato, ma che ciò che voleva comprare era appunto l'idea, perché era originale. Se Martin gli avesse permesso di ridurre il racconto di un terzo, l'avrebbe acquistato e gli avrebbe inviato i $40 non appena avesse ricevuto una sua risposta affermativa. Martin chiese una penna e dell'inchiostro e scrisse all'editore che poteva tagliare il racconto anche di 3/3 se voleva e di mandargli senza indugio i $40. Mentre Teresa andava a imbucare la lettera nella cassetta della posta, Martin, disteso a letto, pensava. Dopotutto, non era una menzogna, eh? Il White Mouse pagava al momento del contratto. C'erano 3.000 parole né il gorgo, 2.000 se ridotte di un terzo. Pagate $40 significava 2 centesimi a parola. Ah, quel quotidiano aveva detto la verità, si pagava la firma e 2 centesimi a parola. E lui aveva giudicato il White Mouse un giornale di terza classe. Era chiaro che non conosceva i giornali, aveva creduto che il Transcontinental fosse di prima classe mentre pagava 1 centesimo per 10 parole, aveva classificato il White Mouse di poca importanza mentre pagava 20 volte più del Transcontinental e in aggiunta pagava alla firma del contratto. Bene, una cosa era sicura, una volta guarito, Martin non sarebbe andato in giro a cercare un lavoro. Aveva in mente altre storie buone come il gorgo e a $40 l'una gli avrebbero fatto guadagnare ben più di qualsiasi lavoro o impiego. Proprio quando pensava che la battaglia fosse perduta, Martin aveva vinto. Aveva superato il tirocinio e adesso la strada era sbianata. Dopo il White Mouse, una rivista e poi un'altra si sarebbero rapidamente aggiunte alla sua lista di mecenati. Avrebbe potuto mettere da parte il lavoro mercenario, che si era rivelato solo una perdita di tempo e che non gli aveva fatto incassare neppure $1. Si sarebbe dedicato solo al lavoro, a un lavoro di qualità, e avrebbe spremuto ciò che di meglio c'era in lui. Ah, desiderava che Ruth fosse lì per poter dividere con lei la sua gioia, e quando guardò le lettere abbandonate sul letto, ne trovò una scritta da lei. Era piena di dolci rimproveri. Si chiedeva che cosa avesse potuto tenerlo lontano da lei per così tanto tempo. Martin rilesse la lettera in adorazione, indugiando sopra la sua calligrafia, innamorandosi di ogni tratto della sua penna e infine baciando la sua firma. Quando le rispose, Martin le disse senza vergogna alcuna che non era potuto andare a trovarla perché aveva dovuto impegnare i suoi abiti migliori. Le disse anche che era stato malato, ma che adesso era quasi guarito e che entro 10 giorni o un paio di settimane, il tempo necessario perché una lettera compisse il suo viaggio verso New York City e il ritorno, avrebbe riscattato i suoi abiti e sarebbe andato a trovarla. Ma Ruth non poteva aspettare 10 giorni o un paio di settimane, il suo innamorato era ammalato. E così arrivò accompagnata da Arthur il pomeriggio seguente nella carrozza dei Morse per l'indescrivibile delizia della tribù dei Silva e di tutti i monelli della via e per l'indescrivibile costernazione di Maria, la quale menò sberloni di qua e di là per liberare i visitatori assediati lì sulla piccola veranda dell'ingresso dall'intera sua progenie. Nello stesso tempo, in un inglese ancora più atroce del solito, cercava di scusarsi per il suo aspetto. Le maniche arrotolate lungo le braccia macchiate di schiuma e un vecchio sacco annodato intorno alla vita indicavano in quale compito fosse stata sorpresa. Maria era così turbata alla vista di quei due importanti personaggi che chiedevano del suo affittuario che non le venne neppure in mente di farli aspettare nel piccolo salotto. Per condurli nella camera di Martin, li fece passare attraverso la cucina, calda, umida e piena di vapore a causa del gran bucato in corso. Maria, nella sua eccitazione, incastrò la porta della camera in quella dell'armadio e per 5 minuti nuvole di vapore puzzolenti, di sapone da bucato e sporcizia si riversarono nella camera del malato attraverso la porta socchiusa. Ruth riuscì a virare verso destra e verso sinistra e poi ancora verso destra e a percorrere indenne lo stretto passaggio tra il tavolo e il letto per raggiungere Martin. Ma la virata di Arthur fu troppo ampia e terminò tra il clangore delle pentole e dei piatti riposti nell'angolo dove Martin si preparava da mangiare. Arthur non si fermò a lungo. Ruth era seduta sull'unica sedia e lui aveva compiuto il suo dovere. Così il giovane uscì e si fermò presso il cancello, oggetto della meraviglia dei 7 piccoli Silva che lo scrutavano come avrebbero scrutato una rarità in un circo. Intorno alla carrozza si erano radunati i bambini di almeno una dozzina di isolati, in fremente attesa di un avvenimento tragico e terribile. In quelle strade le carrozze facevano la loro apparizione solo in caso di matrimoni e di funerali, ma qui non si trattava né di un matrimonio né di un funerale, e quindi doveva essere qualcosa che trascendeva la loro esperienza, qualcosa per la quale valeva la pena di aspettare. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it.